Io sono Gummy Bear, l'orsetto Gummy Bear. Sono simpatico, gommoso, balla insieme a me. Salto di qua e di là, io sono Gummy Bear. Se balli insieme a me vedrai che ti divertirai. Oh oh oh, Gummy, Gummy, Gummy, Gummy, Gummy Bear. Gummy, Gummy, Gummy, Gummy, Gummy Bear. Vieni alla mia festa, non fermarti, balla e muovi la tua testa. Salta e canta insieme a Gummy Bear. Vieni alla mia festa, non fermarti, balla e muovi la tua testa. Salta e canta insieme a Gummy Bear. Io sono Gummy Bear, sì sono Gummy Bear. Sono gommoso, delizioso, sono Gummy Bear. Io sono Gummy Bear, l'orsetto Gummy Bear. Io salto, canto, ballo, rido, sono Gummy Bear. Oh oh oh, dam dam. Io sono Gummy Bear, sì sono Gummy Bear. Sono gommoso, delizioso, sono Gummy Bear. Io sono Gummy Bear, l'orsetto Gummy Bear. Io salto, canto, ballo, rido, sono Gummy Bear. Io sono Gummy Bear, sì sono Gummy Bear. Sono gommoso, delizioso, sono Gummy Bear. Io sono Gummy Bear.